se che prendi 5,50 m di cavo non ci vuole molto. Infatti un dipolo. Già esci in 27 provvisorio. Dopodiché capite, sei a posto. Te chiamo un PL, dico di piccolini, e sei tranquillo. E io ce l'ho il PL, io ce l'ho. Gliene ritacchiamo dal capo, dallo spettrone del coso che avevo fatto, gliene togliamo da lì e li mettiamo quelli. Ho un PL, basta, non ci vuole altro. Capito? Aspetta, vado. Vabbè, quella cosa sto arrivando. E poi devo andare a buttare la mondezza e eccetera, eccetera. Aspetta 5 minuti. E vabbè, intanto io ti saluto, dai, che devo fare cosa pure, dai. Ci sentiamo più tardi. Va bene, ok, dai. Guffetta, ci sei. Attenta, guffetta, che ti facendo? Ti fai dormire? No, mi stavo guardando quel programma Alaska. Stavo chiamando ieri. No, ieri non fa di cosa, non è acceso. Stamattina non c'ero, ero al capo. La madre magistrata mi chiama per darmi il 7:30, appena arriva. Spendili, che ti dirà, spendili. Gettare da vera uccia le buchi. E come di gente c'era? Dovevo andare a fare una transazione. Cazzo, ma c'era il mondo. E me ne sono andato. Ma dove, lì al monte? No, lì qui al latte dolce. Ah, ho capito. Io stamattina sono andato all'ufficio di collocamento per fare un foglio. Certo, arrivi da lì non mi sono andato a vedere più. E anche lì c'è sempre il casino. Già l'ho visto, alcune volte sono passato fuori. Minimo, vedano il giusetto basso, se va se vedano le richieste il giorno. No, stanno aspettando che esca la graduatoria dei cantieri comunali. Ah, ma sa quanta gente c'è, anche fuori, tutti dove c'è il cancelletto. I ricani, l'abbiano di niente, filaretta vera. Foglio per la disponibilità di chi ha fatto il reddito di cittadinanza per lavoro. No, io dovevo andare lì alle poste perché dovevo sconciarmi due libretti e farmene uno unico. Capito. Tutto un casino, bisogna andare a destra a manca, a fare fogli e fogliettini. Non ti sbaglio. Se no, poi ogni anno al capo mi domandano sempre i libretti, te li chiedono queste cose, no? Capito? Invece me lo faccio unico, uno a nome mio di Paoletta, capito? Invece in questa maniera anche tre. Certo. Venuta è la... te l'ho chiamato per la cristalliera. No, la cristalliera no, la cosa giusta se ce l'hanno buttata. La scrivania, la sedia. C'è una di... Vabbè, sempre perché me l'hanno chiesta in tanti, va, ti lascio il numero, vai, lo chiami al tipo e vai, te la prendi. No, era venuta questa qui che poi era di Ruazzozzi, io non l'ho riconosciuta, lei già mi ha riconosciuto. Invece a metà mese di Ruazzozzi, ciao, però abita a Sassari. A Sassari dove? Al centro? No, verso via Londra, via Parigi, quella zona lì. Ho capito. Hai giocato. Ma renda non importa, se va buono un magno, perché a me renda. È raro che la faccio io, mica che poi mi mangio una merendina così, ma non sempre, quando mi sale, no? No, quella già la voleva la cristalliera, però ha detto c'ho la casa piena, se non me la puoi prestare subito, la fatti chissà chi fa e poi di via, ha giudizio, e sarà stata guardata, però ce l'ha già. Beh certo, sono già a posto. Ok, sì, io. Comunque, come si chiama? La... Cioè, chi mi ha contattato la, per quanto riguarda la cristalliera, a chi mancavano 10 centimetri, a chi non ci sta per un pelino, qua e là. Ma io anche a un'altra, gli ho detto una che conosco, nel Valle d'Uria, dove sta al limite nelle lepre, la zoccolatura di sopra, e non le faccio la cornice che c'è, sono 7 cm cornice, e vedi se ci sta, la c'è senza cornice, non è detto che la devo impappare la cornice, No, assolutamente no, non la devi mettere per forza. Un peccato perché è nuova, diciamo. È bella quella cristalliera. È che a me sono troppo pesanti quelli, quei soldi. Se no, anche a mamma c'ha spelle, capito? Se non ci abbiamo pigliato da Edda. Perché chi se la gibba da poco a poco, ma te l'ho detto, l'ho pagata un benissimo, c'è ancora il contratto e tutto, è il coso della finanziaria quando l'ho comprata, e che ci ho speso quasi 30.000 euro, ma 30 milioni, vera la linea vera, da chi si uscema, in quel periodo stava proprio fallendo, stava chiudendo, anzi, poi ho fatto anche un prestito, 15 milioni e me li ha tornati dopo una settimana, ma mi ho fatto fare uno scritto, no? E già me li ha tornati, anche se non li erano esarrendo in un negozio e ne li erano sbignore nella falegnameria la volta a quello. Addirittura gli hai fatto un prestito tu? Gli ho fatto un prestito io tramite finanziaria, la finanziaria l'avevo presa lì di fronte a quel negozio di moto, lì in via Bugino, moto, biciclette, beh, l'avevo fatta lì le finanziarie. Ah, ho capito, da... così si chiama. Ho capito, da ma sono le cose, motorbike. C'aveva anche l'ufficio delle finanziarie lì, quello lì, e l'avevo preso lì i soldi. E l'assegno e poi sono andato in banca, l'ho cambiato, sono andato lì, gli ho dato, poi dopo una settimana me li ha restituiti. Certo, ma qualcosina in più non te l'ha data, ho sempre 15 gliene dato e 15 te l'ha tornato. Ma se mi ritornava la settimana avanti, perché lui gli doveva dare alla banca quei soldi, si doveva coprire i debiti che c'aveva lui, capito? E così in questa maniera gli hanno riaperto il conto, li ha ripresi e me li ha dati. Ho capito. Beh, almeno un po' di interessi se li poteva dare. Ma ha gitta la capigliena, mi ha fatto lo sconto sui mobili, mica faceva di più rubricumi dei mobili. Tutto il legno, già l'hai visto, tutto massello, sia questo, la cucina. Il tavolo, le sedie, che quello lì me li avevo già venduto, il tavolo del salone, mi avevo venduto con le sedie, che era fisso, però era grande, e mi aveva stufato. Tutte le volte ai portali avevo lì a Santaro, e poi quello di cucina lo stesso, era grande ed era fisso. E allora mi ho venduto anche quello, me l'ho preso che lo posso allungare, e questo anche se non è di legno, non me ne ha tutti, pazienza. Ed è più comodo perché lo posso allungare e chiudere quando non c'è nessuno, che ci siamo solo noi, capito? Quello del salone è la stessa cosa, almeno questo lo posso chiudere, quello del salone lo posso chiudere lo stesso. Prima Guido era un barrasone, pigliava tutto il salone. Lo so, Vabbè, io voglio fare purtroppo. È un casino. Vabbè, sarà per da qualcuno. Bello, era bello, però quel tavolo lì andava bene per una sala più grande. Se era stato più grande il mio salone non l'avrei dato, ma nemmeno bassoni. Ma però mi prendeva quasi tutto il salone, era enorme. Bello era, bello grosso. Quello me l'ho venduto a una signora che abita nell'altro portone più giù del mio, la signora Graziella. Non le paro due, se si la portate giù, sono andata e gliel'ho piazzato, perché ho staccato i piedi, per alleggerirlo un po', che pisava un bel. Ti credo. Grazie, ma niente, non va di là, no, non bisogna di là. Tassasse i soldi stanno sparendo, lo sai. Già finale, ridirà, stamane, Alzeo Savina, ributti. Un tipo e una dipa provando con quella carta di quella carta che hanno dato a vanno un momento che si chiama provando al bancomato a vedere la zia di là, una addirittura è entrata dentro la buccia e gli dà dito, no, io soldi non gliene posso dare, lei con questa carta va al negozio e li spende nel negozio alimentare, soldi non gliene possiamo dare. E anche da aver rimasciato in mezzo alla macchinetta, chi? Per lui, per me figlio, la fila di tu, mio figlio, ah, soldi non te ne dà la macchinetta. La macchinetta? Stava provando la macchinetta a vedere se riusciva, se gli dava su i soldi la macchinetta. Ah, al banco, Matti. Il banco. Ma non gliene dà anche... Quelli li devi solo spendere in negozio e te li prende le casse di negozi alimentari e puoi pagare bollettini alle poste, però a dati di là non te ne danzini. Lo so, tu vai lì, da Buggi non c'è, sì, io ho Latte Dolce. Io vado al Latte Dolce molte volte a prenderle al bancomat, oppure in via Pugino, alla stazione, dappertutto vado. Ho capito. Praticamente non bisogna di nada, praticamente. Anche in banca posso andare, al Banco di Sardegna che c'è qua. Però ti fanno un tot di trattenuta di più delle poste, capito? Quando fai prelievi. Si trattengono la spesa, la transazione. Certo. Capì? Con la carta di Biblia, uniti miliardi di uniti, no? In qualsiasi posto. Non è detto che io mi ho fatto la carta in via Bugino, la documentazione io me l'avevo fatta in via Bugino, però mi servo anche qua al Latte Dolce, in via Santa Maria, in via Alghero, a Luna e Sole, e quando va gente io mi posso giro, dove c'è più poca gente entro, capito? Certo. Io vado dove capita, ma per i pagamenti io mi sono ricordato, non mi sembra più ma come mi tocca. Può chiedere un'informazione, quanto mi costa la patente A? La patente A per guidare le moto di grossa cilindrata. Perché non ce l'ha insieme alla B. Io ce l'ho la patente, cioè la B e la A mi avevo tenuto quando me l'ho fatta declassare. Tutte le altre patenti, intanto non ne faccio nulla, non dobbiamo più travagliare, poi cosa me ne faccio? Così quel numero di serie lo danno a altra gente che sta pigliando la patente, capito? E tu la sua patente non ne hai più? No, adesso non c'è, cioè ce l'ho sempre ma è caduta, capito? Non è revisionata. Volendo ci salvo la documentazione e me la revisionano, però non me ne puttinudano a giocare lì a fare fogli, foglietti, che ce li ho anche i fogli, ma tanto no, non ne guido io, capito? No, non mi stare sabbi una giugana che ammazza cacche giù se mi fa rampiltone con i denti, capito? Ma è spazio, se vuoi guidarti, basta. No, ma non mi interessa, non me ne posso preferire. Poi quando devo andare a qualche posto già ce l'ho lo stesso la macchina. Guida mia figlia e ando dove devo andare. Ma infatti, ma se non te lo puoi permettere. No, non mi voglio rischiare io, quell'amico mio che è agattato spesso al cimitero e non è morto se si cavalca via di Santa Maria, lei è andata da me che si è cuttuto sulla marciapiedi, è morto guidando. E io gli dici, ah, te che sei la peggio di me, che va via a brulli stampelli. E tutti il funzionamento era tutto sul manubrio per fare funzionare la macchina, ed era nuova nuova. E noi muso, le farà un infarto, i ghibi sono stato a Monte di Santa Maria e per Martuse che si è cuta la marcia a piedi. Chi è questo, tuo fratello? No, un amico mio che abitava al Latte Dolce, nelle villette, quando scendi dalla Madonnina, quelle villette che ci sono, abitava lì. Questo infarto va di moda, l'infarto è il tumore, va di moda. Oh, mio fratello è morto lo stesso di infarto fulminante, l'ubbio minore era. Usato era poltrona, si è pisato, ha acceso il computer che l'ha chiamato la moglie e adesso sto salendo a cuccarsi. Ha chiuso il computer, ha salutato il figlio col computer. Ha chiuso il computer, ha inteso, boom! E la moglie l'ha chiamato, ha guardato da su ed era in terra, è sceso e secco. Cioè, della serie non se ne manca bizzarro, ma fumava, sì. Sì, a fumare fumava, ma non era un fumatore accanito. Se ne aveva ne fumava, se non aveva non si preoccupava più di tanto. Non era accanito come fumatore. No, niente, era sano come un pesce. C'aveva solo quella malattia alle ossa. C'era anche l'altro mio fratello che abita a Sorso. Oh, però altri problemi ai polmoni, al respiro, non ne aveva, diabete e tutte queste cose così, non ne aveva. E poi era pure atletico, anche era bello muscoloso, con l'addominale e tutto, perché faceva le facciate, spiazzava il ponte già rasura, figurati. Ma cavolo. Fulminante vuol dire che sì, era fulminante, era proprio messo male. Fulminante ti scende anche se sei sano e tu chi non vai, ma chi non hai avuto manco una rumadia, una linea di influenza. Se ti dà di varare un infarto fulminante ti varami, pure se sei sano. Dipende dalla circolazione del sangue, capito? Si può andare in tilti e ti vara, si chiama così fulminante, capito? E crebbi, e se ti vara lì su, non fai credo che ti inibesia, pure se intervengono subito il 118. Oh. Lo so, però quello se è fulminante ti si crepa il cuore in due. Ti scoppiano le arterie del cuore, ti scoppiano. Ho capito. Alla fine, cioè, mi no chi fa modo di dire. È così, l'infarto fulminante, così, i giocatori, non hai visto quanto ne muri in campo, giocano a pallone. Vabbè, lo so, poi... Però, un casino. Io ne conosco altra gente che sono morti così. Un infarto fulminante. Per dire, sanno come è un pesce. Tipo un altro amico mio, Genuario. Sanno come è un pesce, non fumava, mai fumato, mai bitto. Ma mangiava, si mangiava affossibilato, già sta di avere, grosso, ma però era un bene agile, si muoveva un bene. E beh, tumore alla casciuga, è la cosa. è andata a Milano e ci ha rimesso le ecco. Va, sali, se fa una vita di merda. Luca, ti do soli via e poi fai te unì se la diva che tell these people that tomorrow they have to go and make like this a sanitarium. Ni pepa si ha di table, di doctor just left right now. Buisce, ecco. Già contribuisce, ma non ti credere, città di Vinica che cosa diveni, brusi, se non fume, non bizia, non fumava, mai fumato in vita sua, mai vita in vita sua, solo a mangiare, a bieva, eppure vedi. Se ora accusavi voi, cosa? Io conosco gente che sono una vita, vita mia. Un imbriaghi da cante un anno, eppure parecchi che conosco io ci sono sempre si imbriagheggiare sempre. E sono belli arzilli se li vedi. Dipende secondo me dalla costituzione. Dimmi tutto. Giambo, giambo. Dimmi. Lo so. Ma essere grazie, casino, capito. Mamma mia, cazzo. Tipo mamma, mamma è a rischio. Guarda, ti dici ora se ti dici you have to tell these people that tomorrow morning at 7 that they have to go and do the sanitary. Non ti faccio, Penso te, ma ancora ti che i pepe ci vedevo, a me chiama il professionista. Grazie, lo devo fare, cioè, stava bene. Se vuoi dare una regolata sul sale, sul mangiare soprattutto, deve perdere peso, è un bel pure. Boh, come ti fate, mamma Dio, avevi sempre fame. A me, boh, certe volte, se non ne vengo di mangiare non ne zecco. Mangio perché so che mi faccio l'insulina, allora per forza devo mangiare. Se no molte volte non ho voglia proprio di mangiare, però sono costretto a chi... Mi misuro la glicemia e magari ce l'ho un pochino più alta e allora mi fa l'insulina, ti fa l'insulina allo stesso tempo devi mangiare sempre qualche cosa, capito? Se no io non è che ne zecco di mangiare, non me la fotti nulla. Io molte volte la sera, la notte, mi faccio il tè, non te l'ho detto, due fette biscottate e un bagattaggio. Lo manzano, alla pesata di un litro, mi faccio un caffè. E il tè con due fette biscottate, boh, fissa all'ora di pranzo non sto cunda e da poi non me ne viene nemmeno fammi. Lo so, grazie, cosa vuoi, cosa ti dico, già gliel'ho detto, adesso da 10 la notte gliel'ha portata a 16, cioè cala, adesso c'è l'appuntamento a ottobre, cioè appuntamento 18, no, il 10 ottobre. Però 15 giorni prima deve fare il prelievo tutto quanto. Io stamattina quando mi sono alzato ce l'avevo 109, ce l'avevo, poi prima di pranzo ce l'avevo 125, adesso me la misuro prima di cena e dopo cena quando prima di coricarmi che mi faccio quella della notte. Secondo come mi trovo, te l'ho detto, mi faccio il tè e niente, due fette biscottate, sono cappuccio, non hai compreso, non ho detto che aggio di mangiare per forza, e sto con burro più begando mi faccio il tè, perché dormo meglio la notte, se invece mangio, dormo più poco. Perché a letto una volta che tu ceni, anche se per dire ti corichi due ore, tre ore dopo, no, non digerisci come devi digerire quando mangi il mezzogiorno, il pomeriggio ti muovi, ti strampi il muretto, insomma fai sempre qualche movimento, no? Invece di noi che movimento fai, nulla, mangi da vedere la TV e ti sei gonfi. E di quella digestione più lenta. Lo so, bisogna mangiare il giusto, là. E invece se mangi come ho detto io, il tè con due fette biscottate, rimani giusto e la mattina te ne alzi anche bello tranquillo. E io l'altro giorno che mi sono alzato da mal di schiena, la notte è buio, ho cenato solo il tè, la mattina appresso non avevo mal di schiena. Ho capito. Aggiungavi, grazie. Mamma si deve regolare, è inutile. Deve essere una regolata, perché già quello che ha non è messa bene. E quanti anni va mamma? Due, una settantina c'è. 73, no? È già un'età che la, specialmente la notte deve tenersi leggera, anche il mezzogiorno. E il pizzolino si fa dopo pranzo. Speculata! Che cazzo! Oh, male, no, deve muovirsi, si fa una passeggiata, non è amica, non ci va in chiesa, lì al monte. Ma non tocchiamo quel tasto, grazie a tutti i zini, cos'è la passeggiata, lui? E anche una passeggiata di vivizino, lì, come i giardini, quelli che hanno fatto lì al monte. Si fa un giretto, se c'è qualche amica, mi pare che la sera è andata a camminare. Un'amica sua che è vedova ed è giovane e si sono andati a fare una passeggiata, a fare giù duri, a camminare, a letta va sempre. Aspetta Grazia. Eia. Bene, ne è crollato un ripiano in bagno, Grazia. Ma una mensola. Sì, beh, appoggiare i prodotti Marina, sì. Infatti ho sentito un rumore poco fa, però non pensavo che fosse quello. E allora le sape non erano piazzate bene. Sì, vabbè, noi siamo piazzati bene. Sì, le copri due reggimenti, le abbricco, ma costano tre, ci sono sei poi piccolina, costano un euro una coppia. Già lo so, 1,70 euro, stamattina li ho comprati per casa, perché devo piazzare una mensola dove mettere le, come si chiama, le saldatore, il saldatore, la spirastagno. Basta mettere due mensoline va a buia. Io non riposto, ne ho messo 10, ho messo una mensola. Adesso devo guardare in garage se ho quell'altra mensola o se c'è la mia parata campagna e me ne devo piazzare un'altra, perché devo mettere, appoggiare lì l'alimentatore, l'altra radio, lo zodiac. Perché in basso in questa che ho messo ci ho messo anche il computer e già va bene, però me ne serve un'altra lì, ce l'ho una ma è a mezzoluna, è un barrasone, io la voglio mettere lunga, capito? Ah, per certo. Non sta già, tu che mi hai dato dei led a 12 volt, praticamente una fila di sono 10 led, come si sono attaccati sotto con l'acqua a caldo che fa luce. E niente, insomma la piazzo, domani vediamo un po', se non ho niente da fare. Me la piazzo. Io cosa avevo a piazzare la mensolina? La Radio Borcaggi Cumini, ho preso la mensola, l'ho messa a livello, ho segnato la linea. Ho preso le staffe, mi ho segnato i buchi, ho fatto due buchi col trapano, quattro tassellini, ne manco umani, mi li ho messi da sì, da a chi cosa devi ne ricchi. E ho messo, poi ho avvitato la squadretta e l'ho bloccato al muro, ma sta di buco, una vita a buco, a destra e una vita a sinistra, a chi peso di rimanere. E vabbè, ma la mia è un po' grande, sarà un metro di lunghezza, larga 50 mi sa. E tre staffe sto mettendo. Una da parte all'altra, l'altra, e l'altra al centro. E questa è più di un metro, quella che ho messo. Però ci ho appoggiato il computer, c'è l'altro baracchino della 27. Poi c'è il mouse che l'ha appoggiato lì, adesso ci ho messo anche la radiolina sopra. E invece l'altra macchina è sopra l'altra mensola che ho messo di fronte, però lì è appena più in alto, l'ho messa per appoggiare cosa, così capi. Me ne serve un'altra per metterla sopra dove quella lunga, là, capi? Così mi libero un po' lo spazio più in basso. Eh beh, certo. E vabbè, ci vediamo domani. Ma me lo metto a livello bene, tiro una linea, no? Con la matita. E poi nella linea che tiro ci metto le staffe. Ehi, fai due segni, ma sai, la gente non sta dicendo, l'ho fatto subito, un secondo, già. C'era il mobile, ma però lì ci ho dovuto appoggiare il fornetto, se non mi andava bene. Ma c'è il fornetto qua in cucina, sui ripiani non ci sta. E gli dà la zuccherina, gli dà sì, gli dà in ogao, c'è bisogno del televisore per la macchinetta di rugaffe. Io che mi so alzo i gingirilli e il fornetto è grande quello e ce l'ho messo dentro lì sopra quel mobile e non c'ho spazio, capi? Se non apri il fornetto lo appoggiavo lì sul computer, ma non fa. Lo so, già lo so, grazie. Adesso vediamo. Ah, sei nato un bigiato da mezz'ora in piedi, il microonde. Il microonde lo ho messo dentro la cristalliera che c'è fuori, ce l'ho messa sotto lì, tanto non lo sto usando. Vabbè, adesso vediamo un po'. Mi sto guardando la bricco, come cavolo, questo è bello. Trapattello, quello alto alto. Allora, modo terminato, 200 euro costa. Io ce l'ho il trabattello con la tavola, adesso non ricordo quante altre. Ce l'ho, l'ho adoperato anche su per mettere l'antenna, l'avevo usato. Ce l'ho nuovo nuovo e poi l'ho usato per imbiancare quando ho imbiancato il salone, capito? Per non stare con la scala, con quello a chi PDB, capito? Fai prima, va? Non sai fare altro con la scala. Ma infatti è vero, se c'è qualcuno ti alza e ti sposta. No, con quel trabattello lì fai un bel pezzo, di lunghezza e di larghezza. Poi io lo metto in maniera che prendo sia a destra che a sinistra, non attacco vicino al muro, capito? Per fare sia a destra e a sinistra con il braccio quando tiri, no? E poi quando scendi lo alzi, c'ha le rotelline anche a una parte, lo solleva appena lo sposti più. E quattro volte che fare altre volte, tu te la muovi da dentro il salone e tutta la parte alta del salone. Dunque. Mi volevo prendere anche la scala, cazzo, costa un bel 100 e passa euro costa. No, la scala ne ho una qua in alluminio a 6 gradini. È un po' vecchiotta, però già funziona. E poi c'è giù in garage, allungabile, in ferro. È bella, è comoda, ma pesa un trono. Ma qua ce n'è una, scala telescopica. È da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gradini. È allungabile. Allora, 4 più 5 gradini. 15 kg solo. Poi c'è una più piccola, 13 kg per l'alluminio. In alluminio, no, quella che ho io allungabile è in ferro. Allora adesso è a due, io la corco in terra, la sgancio e l'allungo e poi allunghi sia da una parte che dall'altra. Ed è un bel lunga, è un bel alta, però è il ferro quella che c'ho, capito? È pesante come chi la balla, pesa un bel peso, ed è nuova, nuova, ma cosa l'ha trattata? Due o tre volte, e allunga un bel mi. Però si usa, a me mi pisa un bel. Pronto? Io se me la compro in alluminio, pieghevole, già c'è, che sono leggerissime, dove lavoravo ce le avevamo, le vendevamo anche le scale. Però chi la palla non me ne ha mai pigliato. Dai. Alla bricca me la guardando in fretta, ascoltami un bel pulichivi, quella pieghevole e poi allunga, come tipo come quella che ho in ferro. Quelle sono leggerissime. Quella già va bene, vedi, è leggera, la trasporto bene. Ma chi sa per dinisce la canna, poco bisa. Già, scusi a me. E poi in alluminio è più maneggevole tutta, capito? Io quella lì, per portarla su qua, è paracina dal baccone, passano del razzo. Capita, me la fatti uscire la canna che pesa troppo. Oh, infatti una volta solo l'ho portata su il seraggio, subito vado da giusto, vai vai che non andi bene tu. E allora, pesa un bel. Non va bene quello. Apiru, c'è che sta un filo, avanti. Apiru, furgoncino. Sopra modulato, mia, non l'ho sentito io. Apiru, sto guardando questo Deplian, grazie. Della Bricome. Io non ci sono i cosi, come si chiama? Termomagnetico, magnetotermico, istruttore, tutto è. C'ho il libro io qua, in cucina, nel cassetto della Bricom, e ve tutto. E ogni tanto quando devo dire qualche cosa lo prendo, lo guardo, a ver se c'è, come te la gatto, se mi serve vado e me lo compro. C'è tutto nel libro, c'è il libro in omaggio, non te l'hai mai preso. Grazie, a me non mi serve una scala così leggera, ma tanto non li piglia nessuno, manco se mi pagano oro. Quella me la uso solo per fare lavori, magari devo bucare un muro, così, non manco per tingere, niente. Oh, quella non fa bene per tingere, quella così pieghevole serve se devi salire un punto alto, o se va che travaglia un punto alto, capito? Per quello, battignino per i vecchi sono. Ui! Sì, magari se gli fa un pezzarete di un ben alto, che non gli lasciano arrivi la bevono trattare. Se sale il secchio con un gancio, l'attacchi a un gradino e fai. Però non è che andi assai bene. E poi quella lì, quando la allunghi tutta, li devi fare, perché non lo so se quella della Bricome ce l'ha la traversa sotto. Se non gli fai due buchi con una traversa in alluminio, vi la bulluneggi, così sei più sicuro se la si bucca. Ma a me mi sembra una cosa leggera, grazie, non ne voglio roba pesante, ma me la compro. Leggera, però quella della Bricome che avevo visto, mi sembra che sbarra traversa per non rovesciarsi, non ne aveva quel modello lì, perlomeno io non l'ho visto, se no quelle che ci avevo dove lavoravo, c'hanno la traversa sempre in alluminio, capito? Se mi si via ve la bullunavo, era attaccata a un fianco, capito? A bullone. Mollavo quei due farfalle e mettevo la traversa sotto per non rovesciarsi, se la dovevo allungare un po'. Ho capito, no, ma voglio prendere questa qua. Ce ne sono belle scale, belle anche comode, e sono belle pure quelle che c'hanno su in punta, quando arrivi c'è il ripiano dove si può appoggiare il fir, il martello, non so, metro, tutti insomma, tutti i bossi, da. Sì, c'è roba grassa di. Lo so. Io quando lavoravo per farmi lavoro a conto mio, la trattatura me l'avevo tutta comprata. No, sì, l'ho domandata da qualche volta, quando non bravia, ma come ti merda? Andavo, intanto sapevo che l'ha utilizzato, parlato, tutto mi pigliavo tutto, cosa mi seguiva? Una volta segata si mi ha pigliata, cosa mi seguiva? La macchina sta in mattone, giocata si mi ha recuperata. Tutto io mi ho sempre preso, se vuoi lavorare devi avere anche i fermi. Ah, ma io la testa tua già ne ho, non è che non ne ho. Trappa, navigatore, la molesta, quella non c'è anche la mola grande, poi trappano i New 2, di cui uno è ancora dentro la borsa sua, della Bosch, no, non della, è della Bosch, sì, l'altro è di 13, avvitatore della macchina. No, già ne ho la tastatura, tutte le serie delle punte mi sono comprato. Ehi, trappani ne ho 4 o 5, grande, medio, piccolo, ce l'ho, l'avvitatore ce l'ho nuovo, con due batterie, nuovo, l'ho comprato quando l'anno scorso, l'altro si è andato un po', tante batterie non agattavo più in giro, e oramai erano esaurite le batterie e ce l'ho buttato. Che lo potevo usare, mi bastava gli attaccavo un alimentatore con il cavo lungo, lo potevo anche usare, ma se la giovan papa di tomino molto piccolo ce l'ho e ne ho roba, attrezzatura, voglia, e nonostante ne ho dato e ne ho anche dato, è un bel punto. Cagiarelli, baretti, mazzette, cose che non ha giocato, ma... Ma senta, chi mi è marina, ma chi mi è stressa nella vita? Sculaccia! Se ne parli tu, mica sento a te. Cosa? Ho detto, se parli tu, mica sento a te. No, mi ha chiesto un piacere, gliel'ho fatto. Ah, il piacere si fa così. Ma lei ne faccio piacere, vero Marita, ne faccio piacere, no? Ma che piacere sono questi? E cosa sono? Cosa che devi fare perché siamo a casa insieme. Ah. Piacere, io piacere. E tu mi hai detto, ma mi piace un po' dietro, l'ho messa. Bruciato, e cosa che devi fare? Se sono cose che devi fare, la devi fare senza bisogno che ti ridi a Edda. Bruciato, dai. È vero, mi hai subito a pensare a mari. Caccia le barche così. Teni bolletta, teni i chigosi. Ti zia, dagli animi domani, sì. Stamani. Non ha fatto un casino, hai su. Ah, quel ragazzo che lavora lì al capo. A chi è chi ce l'ha detto, posso entrare a chiedere? Devo solo chiedere, è entrata, si è arrivato la Iana e non si abbia aperto la Iana, si è entrata e l'ha fatto un casino. Mi ha detto che si è stato, guarda, si sono lette, mi le vedete, guarda qua. Questa sono 19. Ma 100 euro, Bisogna vedere la lunghezza. Ma io non la voglio esagerare esattamente grande. La finestra, sì, io ci sono. Hai visto ieri, ha fatto vedere le 100 nuove, le 500, le 50 euro e le 100 euro, e le 200 euro, nuove. Ma nuove che in che senso? Hanno modificato il colore da una parte in basso, tutto riflettente, e rimane a quadrettini, perché in giro ce ne sono parecchi oramai. I contraffatti, i capi falsi, e allora adesso li hanno modificate le nuove monete, le nuove soldi in carta, e fatti vedere le 500, le 200, le 100 e le 50 e le 20 euro, via. No, grazie, stavo guardando Marina, vuole mettere la tenda in terrazzo. Ma ancora non conviene, se piove, conviene a fine settimana. Che a fine settimana che c'è un barutempo. No, ma come si dice, no, non per... No, non l'ha manco comprata ancora, devo andare a vederla. Ci vuole, grazie, lì è un casino, capito? Ah, la tenda solare stai dicendo. E cosa è allora, la tenda solare? Ci sono anche alabri come me, i prezzi sono buoni, se l'ha presa mia nipote l'anno scorso, che abita lì punti. Mia nipote e mio cugnato qui in casa le punti, se le hanno prese lì uguali e se l'ha piazzata. Sì, infatti bisogna scendere e vedere un po', bisogna prendere cosa, sono anche 2 metri, già va bene, dai, 2 metri di lunghezza, è lunga almeno 3 metri, di più, va allungare 3 metri. Questa è una misura da, sì, più di 3 metri, o con i braccetti, adesso bisogna vedere, bisogna metterla un po' alta però. Ah, con i braccetti non te ne imbigliarci, fa caso esce, tira la gabbia e fa di vento, ti tronca le braccetti, tu te la devi prendere a caduta e le staffe le metti sulla ringhiera, la questa parte della piazza la devi mettere, le staffe le abbulluneggi con i bolloni autofilettanti, ce ne vogliono 3, e 1, 2, 3, 3, 3 viti autofilettanti, come ho fatto io, li metti nella ringhiera, e ti conviene a caduta. Sì, il terrazzo di fronte, lo stai dicendo tu, già è lì. Ma non te ne vuoi prendere se la prendi con i braccetti, se ti dimentichi la tenda aperta, esce, fa di vento, ti la dronca, Roberto, ti la chiudi in alto. A te lì va bene, a caduta, perché poi tu i braccetti che metti sulla ringhiera li puoi regolare in alto, in basso, gliela dai tu la cadenza che vuoi, capito? Bisogna scendere, grazie, a vedere un po', perché non la tenda a costa, Cosa che la bricca come costava? La rossina l'anno scorso costava 100 euro e la lunghezza era 2 metri e 40, mi sembra. Che poi a te non è che ti interessi che devi da fatti tutto derrata, se ti interessa che ti copri la porta a finestra con la finestra. La finestra mi sembra che c'è, adesso non me lo ricordo. Lo so, però il discorso è che lì vuoi mettere i braccetti, poi se c'è il vento sì, perché non c'ha dall'altra parte con i braccetti, quando c'è il vento la chiude. La tenda, quella tenda che allunghi, si allunga con i braccetti, quella stai dicendo. No, io qui ce l'ho a caduta. Poi i braccetti che sono abbullonati la ringhiera li posso regolare come mi piace, alti, bassi, capito? No, io stavo dicendo, quella con i braccetti, la tenda, che la piega e si vedono i braccetti, quella lì, se te la lasci aperta e fa casuici, non è agganciata da nessuno, da nessuna parte, il vento ti spacca i braccetti. Vabbè, quella del terrazzo, dall'altra parte la piega, qua siccome tira di più e non la lascia aperta, fidati, se no si spacca, poi se si spacca, già ripeto. Ma poi c'è anche questo, quella caduta costa anche di, costa di meno, quella con i braccetti viene a costare di più, c'è anche questo, mi sembra che ci sono anche già la bricome, quelle tende, c'è sul colore, sull'arancione mi sembra e sul nocciola. C'è già succi. Però lì costa, no? Su misura, mi dava 30. E guarda che dopo lavoravo io le vendevamo e andavo a piazzarle, sia a braccetti, a caduta, ne ho piazzato denti, e a chi si immagino che me l'ha piazzata, Babbo Natale, io me l'ha piazzata. E mi veniva anche male, perché ce l'ha vetrata, eppure me l'ho piazzata lo stesso. E anche lì al pomodoro, ai punti, tutta quella veranda che c'è fuori all'aperto, quella veranda, tutte quelle tende non le ho piazzate io, Nati piazzato i denti. E aspetta un attimo, grazie. Che prendiamo una misura, aspetta. Eia! Attenzione, Graziano, ci sei? Graziano? Attenzione allo chef d'Italia. Oh boh. Graziano. Attenzione, Graziano. Oh boh. Boh boh. Boh boh. A vero. A vero. Lucrezia, ci sei? Dimmi. Lucrezia, ci sei? Ah, mi giri a borsetta. Furgonci. Beh, Lucrezia. Chi la devi mettere? Ti ho visto fuori. Chi viene minori? Mi sto guardando qua se ci sono, ti dico il prezzo. Sì, sono qua fuori, grazie. Sì, qua la devo mettere, allora. Chi viene minori? Io pensavo che era più in mano. Aspetta che guardo, se la trovo qua te lo dico. C'ho il libro. Ah, ce l'abbiamo anche noi, la preso Marina, là. Se mi stai guardando qua, in alto, alto sarà da terra, sarà 2-3 metri circa. Come lunghezza siamo a 2,20 metri. Vabbè, 2,20 di larghezza, ma ce la porta, sono 2,50 metri circa. Già ti vedo, già, in maglietta nera, sì. Non è grande. Sì, maglietta, a maniche corte sono noi. Lì però lo sai come la devi comprare la tenda? Con il cassonetto, se no ti si rovina a inverno, con pregio, ci sono anche con l'interno. Ah, ho capito, quel cassonetto in acciaio, è là. Adesso non so se in acciaio o in alluminio, non me lo ricordo. Lì ci vuole quella, così rimane riservata per le intemperie, per l'inverno, a chi mica è inverno da aprire la tenda. E lì alla Bricoman, le avevo viste io, quel tipo di tende così, capito? A che se tu pigli chissà senza cassonetto, te si rovina d'inverno. O se non la devi imburicare con un nylon, ma si rovina lo stesso. Allora, 2,50 metri, per 2,50 metri, con cassonata, compresa di braccetti, 120 euro, giusto? 120 euro. Cassonata, ma la bricome? Ti mando la foto. Mandami la foto. Se no dovresti guardare anche a quello di Porto Torres, che c'ha un bel di sconti, quello lì. C'è anche quello. Qua la trovata, grazie. Quella centrale. Aspetta che io mi assento, vado a farmi una doccia. E adesso la guardo. Oh, chi è? Questa va bene, questa col cassonetto, ed è accaduta. E andave. È vero. E allora? E tu la tenda non te la metti? La tenda solare non te la metti? Dai, babbo, me l'ha detto. Adesso? Ehi. Ehi, vai bene, fuori di là per me. Ehi. Strano, però... qua non me la trovo io, ci devo essere. Sentene Gian Maria, eia. Mia Tore, mi, grazie. Ciao Tore. Beh, Tore. Vilu. Un attimino, Ehi, Luca, ma quello è della Bricome. Grazie. Ehi, dimmi. Mia Tore, mi. Tore. Milumina. Tore. Tore. Ci sei? Luca, trovo il libro, l'abbricco che mi hai mandato. È un coso, un diplian, di quelli rossi grossi, quelli... Sì, oggi è arrivato, ma ce l'hai anche tu se guardi nel portone. Adesso l'ho preso, no, l'ho messo fuori, non l'ho neanche guardato, adesso lo prendo fuori. C'è un mio bagaglio, c'è venuto di là, guai, tipo... Invece spugliatore, ma l'ho incontrato. che c'ho il libro qua io della Bricco, però non riesco a trovarlo, adesso guardo quel del privato. Oh, grazie. No, non è, non sono della Bricco, per quelli che c'erano stamattina da me, sono di Euroici e cosa, e l'altro cosa, e affanculo. E un altro dei piani, quello della Bricome non c'è. Grazie Asco, adesso che mi sono ricordato, stamattina sono andato dalla Bricome per prendere le stecche per la volgibile, ma Bianca non ne ha. E poi sono andato da Overplus, che mi costa molto di più, ho chiesto più o meno, e mi costa, non dico il doppio, ma 10-15 euro in più mi costano. Perché da Bricome costano 5 stecche e 14 euro mi sa. 14-15 euro, invece di là molto di più mi costano. Mi potresti dire dove andare magari da un'altra parte? Qua, se vai da quello di Bianchi, le stecche le compra la Overplus. Se vai da quello che c'è al corso, il corso Trinità, le stecche le piglia sempre alla Overplus. E dunque delle basi di bagancura di più. E la Bricome? Non ci sono. No, ci sono grigie, ma sono bianche. Grigie ci sono, ma bianche no. Questa mattina ci sono bianche, ma costano molto di più. Ce n'è un pacco grande, 50 euro costa. C'era quello che ha fallito, mia porcellana, quello lì. C'ha un negozietto, adesso non lo so se è al corso, in corso Trinità, però le sai che le prende già pronte e lui se le taglia a misura da Overplus. E se ne va di bagagli più. Poi c'è Gianni che lavorava da noi e si è messo a conto suo ed è sopra. Non è che c'è amici che vanno a fare consegne, ma se non c'è a passare la fabbrica delle avvolgibili. Grazie, il discorso è che lo dico, non so a chi dirlo. Capi come mi conviene perché ci guadagno, capito? Praticamente sto cambiando 10 stecche, dimmi tu se è troppo, 10 stecche dove lavora la Maria, la signora. Ci metto un paio d'ore per farlo. E sto chiedendo 50 euro di mano d'opera. Una gliel'ho già messa apposta, adesso devo farne un'altra. Un paio d'ore, ma pulite 10 stecche, ma matto. ci mi pongo, cosa mi pongo? Mezz'oretta. Abbasso la volgibile, la levo dal cazzoretto, la metto in terra, ne levo le stecche rotte e ci infilo le stecche nuove e ci ributto la volgibile dentro. La sala in salone, no, che siccome ultima di giambato la cinghia, che si stava rovinando, c'era la morte, me l'ho cambiata. E 10 stecche. Potresti prendere quelle, se non sono bianche, le metti su. Quelle che rimangono all'interno del cassonetto, tanto sempre quelle 7-8 stecche rimangono tra il cassonetto e la veletta e non si vedono. Oh, vabbè, grazie. L'ho fatto con calma, perché me l'ho buttata tutta a terra, l'ho controllata tutte, una per uno, perché purtroppo sono troppo vecchie. Ho preso le più buone e poi ho aggiunto le nuove. Praticamente quelle di sotto le ho messe vecchie, perché quello che tira è su, e le nuove le ho messe su. Ma l'ho presa con calma, non è che ci ho fatto di così in fretta. Lo so, ma va, chi se sai chi ti ha buttato nuovi, chi si come tiri, c'è poco a poco da una tracciata, quella vecchia che è collegata alla nuova, si taglia perché sono bruciate, sono secchi, la frasca oramai quella è bruciata, con il tempo e più si secca, capito, se gli dai un colpettino appena appena più veloce sulla bandola, oppure sollevandola di colpo così si stacca la stecca la biccia, capito? E quando sono così devi stare sempre giamba secche, capito? E già batti quella pure lì sopra le nubi, le invece sotto. Io leo là in un di mezzo il padrono. E le altre sono da cambiare tutte perché ce ne sono anche altre rotte. Piano piano si stanno spaccando. Io non mi posso fare nulla, non mi posso fare. Comunque come cifra, come mano d'opera già va bene, sì. Sì, quanto gli hai chiesto? 50 euro. Che andava, ma... E poi se ci hai impiegato tutto quel tempo, Cioè, ma tu vuoi impiegarci quel tempo? Ma io, che quel lavoro così mi... C'erano che con i camere fatti al volo, ma non è tutto questo tempo. Io adesso sono troppo veloce su quei lavori così, mi rimagno. Per esempio, tu quanto prendi per cambiare una cinghia? Di una finestra però, non di una porta a finestra. Cosa hai detto? Quanto prendevi per cambiare una cinghia di una porta a finestra, oppure una finestra, non so se c'è la differenza. Se ti porto la cinghia io, massimo li prendevo 30 euro, se poi erano anche i condiziali gli dia dammi 20 euro, o se no addirittura gli dia lascia fare, o se no mi faccio dare subito la cinghia. Vabbè, là, una tipa che conosco, 30 euro gli avevo chiesto per cambiare una cinghia. Sì, perché se chiami il mio principale, oppure quando mandava a me il mio principale, per conto di loro, con il furgone più io, e gli sparava 100 euro, 120 euro, e quelli a parte, e poi gli pagava il materiale, la cinghia. Non muovi, perché ogni... l'assicurazione costa, il gasolio lo consumi, le gomme, è tutto un consumo. L'operaio vuole pagato. Infatti un bel dei clienti mi si incazzavano, sazzavano, si varavano, ma mi scusi, è inutile che si arrabbi con me, telefoni alla ditta, dammi qua c'è il numero di telefono e parli direttamente con quello che mi ha mandato. Lo vuole che lo inizi il lavoro sì o no, anche un bagliette mi domandavano la spesa, no? E io gliela dicevo, dal buono che gli dovevo lasciare la cuffia. Cosa così, caro bagliette, non li giambavano. Mi si mandava, allora quando io telefonavo da Iosso, prima di scendere giù, o da casa del cliente, guarda che il cliente mi stava andando via, perché ha detto che è troppo caro. Cazzo, mi stava a essere sbagliata un casino e l'ha denunciato a un obbediente. Perché ha voluto lui i soldi per me e i soldi del mezzo. E il tempo che ci ho perso. Lo so, grazie, purtroppo. Quando compri i preventivi, consumo, cioè, basta farlo pagare il preventivo. Infatti lui poi si faceva pagare il preventivo. 30 euro al giorno, ma veniva a Baidà a guardare cosa ci voleva, ci faceva pagare. Se mandava a me, mi doveva pagare. Però gli dava lui i soldi, mi dava buono, no, capito. Da lasciare al cliente e mi doveva dare di no. Dabbè, rubasia il travaglio, aumentava la cifra, se non rubasia, mi andava via. E lo dicevo quando rientravo, ma non ha avuto fare. E gli dava i soldi dello tempo che ha giù messo. Un casino, ecco io perché c'avevo un bel cliente sui? Perché quelli mi chiedevano il numero di telefono a me, io glielo davo. Già ho capito, Vabbè, comunque sono questi abbordabili. A me mi diceva, ma se chiama lei, questo prezzo qui qua. Mi diceva no, se vengo io gli faccio un altro prezzo. Io non ne devo pagare un pegato, ma lo faccio io il lavoro e pago a me, se chiama a me. E allora mi chiedevano il numero e gli lasciavo lì. Tutti gli inglesi, la maggior parte mi la via io. C'avevo più lavori fuori dall'orario di lavoro a conto mio che per conto suo. Vabbè, ma se ti sgamava passavi ti guardavo un cazzettone. Ma ti va dire che mi sgamava, già me lo diceva ogni tanto lui, mi diceva ti hanno visto, oppure quando fragibili no, io gli dicevo per casa mia sono, se non gli dicevo per campagna sono, perché lui mi chiedeva di chi era, no? Anche a Borgi Blentiere cambiavo, capito? Anche appartamenti, tutto l'appartamento, io facevo fare il preventivo di quanto me le lasciava a me, capito? E guadagnavo da negozio e più dal cliente. E così andava, dai, vabbè, ci sentiamo dopo. Ehi, ha già sovvino qui. E grazie a mio figlio adesso. E io sono divennato. Barba e doccia, grazie. Ogni tanto mi lavo pure io. Ah, oh, io me l'ho fatta ieri, barba e zucca, oggi non me ne importa, che cosa so, un massiccio. No, me l'avevo segnata di grazia, ogni santo giorno, poi se sto male mi lavo a pezzi, sennò ogni santo giorno me la faccio, d'estate anche due o tre volte. Ma magari tu ti muovi, andi, ti muovi, su, di io, ci trovo una cosa da rugare. La rugappa ci ho fatta robe, mica ci sono andato in nulla, ma... vabbè... Sorito, Ehi, you, a chi sei? Boh? Senti, mi sei scendimi, maranno che la... Tauri! Maranno che la saccarria, ma cosa ci ho fatto di male, ti ricudo una susa, Tauri! Tauri! Visto lo hai! Torrenchivi, ti pochi, vi raggiungivi, se scendimi, maranno che la tauri! Maranno che la saccarria, ma cosa li ti ricudo una susa, tauri! Tauri! Luca! Tauri! Sparito, Sarà con Gio Maria al baracchino, allora. Sto avvisando a Wishi che non mi sono arrivati gli articoli ancora, prima che se ne dimentichi. Adesso so già treni raggio segnalato, chi te lo quarto. Io ho fatto questa pasta aglio, olio e aglio, prezzemolo e peperoncino. Aglio, prezzemolo e peperoncino. Le baffettine, ma sono uscite di una bontà unica, buone, io da me non le facevo, ma diglielo Mari, buonissimo, sono un mostro, sono già è buona, però io sarò sì, mi sono chinato la pizza, ma io non ne ho buca, mi faccio un stesso. No, di altro non ne facevo mai pasta, solo a pranzo. No, io qualche volta già la faccio la notte, ma qualche volta. Ma non io voglio mi faccio un tè, a Giovanni doveva mezzo e dunque, niente. Ho capito. Vabbè, c'è molto, molto, ma molto buona. La prossima volta due cose. Già è buona. Ma di tacchi non è che non la Giovanna mi faccio il tè. Me l'hanno ordinata loro, io non li faccio. Vabbè, mi ha sbigliato la chieta abbassata, do rabbista, nonno. Vabbè, però c'è magna. Nonno, già sto bene lo stesso con il tempo. Perché mi devo fare l'insulina, io non ho già manco gana di magna, vada da finisma. Illu, la magna grazia, se lo morimmo. Guarda che di bambino si muri, di senti poi muri, di bambino. Settimo articolo, adesso clicco, noi arrivi. Vabbè che Postino non ho visto questi giorni, tu Postino hai visto. No. Perché questa roba mi usa così mi la regalo un bostino, ma non si è visto bannuta. Qua a Postino non se ne è visto. Adesso io sto segnalando che aspetto un altro po', se no voglio un rimborso. Non mi la fatti nulla, avrà voce. Certo, male sono in ritardo, dai. Già lo so, ma così in ritardo no. No, non era mai capitata, addirittura solo delle 16 che avevamo. Oggi è giovedì così, mercoledì 22. Cosa? Oggi 22. 22? Ma che dici? 29. Ah, 29, infatti. Quegli ordini, allora sono arrivato a 7, mi dovevano arrivare il 16, il 20, il 21, il 24, 2 lo stesso giorno, 1 l'indomani e non si è visto nulla. Quanto tempo ci è passato? Il primo mi doveva arrivare il 16 e ho aspettato un paio di giorni e l'ho avvisato. Allora, l'altro non mi sono arrivati in Roma stessa. Adesso glieli sto segnalando. Sì, ma già c'è sempre un po' di ritardo, magari anche dalle poste dipende. Vabbè che questi giorni il postino non ho visto. Sì, vabbè, grazie, ma purtroppo ci sono dei ritardi. Te, questo mi deve arrivare il 25 maggio. Quest'altro consegna entro il 26 maggio. Io ce l'ho cancellato. Questo consegna il 22 maggio. Ho cancellato, E poi ne ho uno, consegna il 31 maggio, va bene questo. Però ce n'era un altro, consegna il 17 maggio, non ho capito. Aspettare bisogna, a me è capitato lo stesso, ma arrivava quel giorno lì e invece fu... mi è arrivato dopo 3, 4, 5 giorni in ritardo. Ma dipende dalle poste, dai corrieri, capito, grazie. Questa roba che mi porta al postino è tutta roba piccola. Aspetta, glielo segnalo, e sono già 3 punti. Se ho ricevuto questo articolo, no. Allora, gli scrivo, aspetterò un altro po'. E tu mandagli un messaggio, grazie. No, ma basta che l'avviso così e tramite email lo stesso. Ciao Mary, e che facendo? Tu, che sto facendo? E che per un mito c'è? Che un mito so? E che per un mito c'è, Gio Mary, e che facendo c'è? Per te a fondo? Ehi, tutto a posto lui? Tutto a posto, niente inutile, Gio Mary. Ma lo chef non vede. Fuori da quel giambattino, vero? Non è acceso, sto facendo cosa. Luca, c'è la base magnetica, 3 euro. E dove? Su Wish. Aspetta, 3 euro, aspettati, dico spedizione. Allora, 3 euro costa. Per il PMR c'è anche il capo, 5 metri di capo attaccato. Il PL però se lo ci vuole solo. 3 euro, magnetica, mini, vesti, moment, antenna, UHF, VHF, SMA, F, BF, numeri, viso 88, 85, 663. 777. Aspetta, c'è a vedere. Su Wishy. Già ce l'ho pure io. 5 euro. Con il trasporto è 5 euro. Hai visto, è bellina pure. Mi questo, arrivata con largo anticipo, grazie Wishy. Vieno qui, ne ho un altro. Ottimo prodotto consigliato, tutto che è perfettamente funzionante. A che oltre a comprare Giuseppe, sti che da comprare l'altro, ma tu non comprare mai niente. Compratela tu. Guarda che io stavo protestando perché ancora non mi sono arrivati. 9 articoli mi devono arrivare, stavo protestando che non mi sono arrivati e gli ho mandato le email, ma lo vedi, vabbè che mi arrivino tramite posta questi, perché sono pacchetti, ma postino non ho visto questi giorni. A chi credi lui tu? Intanto ricordi una, Graziano. E allora, è sicuro? Sono cliente oramai di Wish e non c'è mese che non compro, me lo bei. Davvero? Guarda, offerta istantanea, aggiungi adesso, all'ordine, me lo bei. Ma non mi interessa a me l'antenna, non me ne importa. Beh, si va t'attacchi a Danilo. Cosa ti sei fatto? Ah, Danilo, ti attacchi. Ma fai un bel roba. A voglia comprare a me. Ma lo sai quanto costa quella faccia che si metti nelle spalle che sta uscendo al televisore su internet? Luca, 3 euro costa. Lì, qua, c'è qua. E il televisore sul cellulare l'ho guardato su Facebook, 2,49 euro, e lo che costa 3 euro, ma è precisa, anzi è meglio vita chi è senza figlia. Che uno ha fatto di cassone, l'altro ha fatto di plastica. No, la roba che figlia è sempre dalla Cina, arrivi, è sempre da Confucio. Ministero dei Trasporti, furgoncini. Ma non per bisogno, un palantello non per bisogno andare a Cina. In Italia deve venire a trovare, se ne vuoi. Ma che poco burro, lo sai, che santellini del genere. Ma non la paghi 3 euro, no? Cazzo. Sai, 3 mesi arrivi. No, arrivi subito, chissà. Ci sono quelli che le hanno ordinate, arrivata veloce, super veloce. Davvero? E allora, la bella tante cose che bisogna, Luca. Stavo cercando delle CD per il mio telefono, ma non c'è. Che cosa? L'LCD per il mio telefono, non c'è. Se li mandi l'email, se mettono la fotografia, già c'è. Manchimi non è originale, capito? Vai che sono tutto originale, vai, cosa non sono originale? Ma sai quanto costa l'LCD del telefono mio? 200 euro costa? No, che costerà un quarto di 200 euro, 25 euro. Sì, va tutto. E tu prova a mandare un'email e poi lo vedi. No, non le rimane adesso la pasta al forno. Cazzo. E una bacchettina ci passa da te, te la mangi in salute, te la mangi. Capito? Oh, ya. Yeah. Ora posso vedere la pasta al forno, ora posso vedere. Non mi piace, Cazzo. E io preferisco i piatti spaghetti, ma la pasta al forno la sa voi, Sì, magari la bassa fuori ti piace anche la Siano, ma a me no, Ma io mi mangio un pezzaretto, che ti dice a Zubudu? La ti mangia dalla bocca, ma ti dice a Zubudu e ti butti un secondo e non mangi più. Dunque, una volta ogni tanto già la faccio, già mi piace, però se ne mangi appena appena di sopra più, sei buttito. Lo sai quanto costa il microfono per il PMR con la spina quella sua? 2 euro, Giommari. La spina di cosa? Del portatile, quella spina, lì c'è qua, il microfono, 2 euro. Ah, la spina, ma quello del PL, l'attacco del PL? L'attacco del PL che c'è attaccato al microfono dei portatili. È completo il microfono. Costa 2 euro quel microfono, con il filo e lo spinotto attaccato. Completo. Adesso costano poco quelli. I soldi però sono accoppiati, capito? Ma costano poco quelli lì. Quello fa pittatura sullo PMR. No, ce l'ho io. Ne ho due di quelli lì. C'è anche Riccardo, uno aveva guardato a Luca che si era sfasciato, vero lui? Che cosa, ci avevo capito? Ma ti ricordi? Si era sfasciato uno. Che cosa? L'attacco dell'antenna alla cosa, al buffer. No, l'antenna mi si è piegata, Giomari. Ma ho capito. Ah, sì, l'attacco, sì, è vero, sì. Vabbè, Luca me l'aveva dato, era già rotto. Infatti, non l'avete aggiustato? Negativo, si poteva aggiustare, no, Giovanni? Che ci possa aggiustare, basta metterci appena di attacca in giro, e non riesci più, e lui, vabbè, Comunque, te l'hai comprato nuovo, no? No, me l'ha dato Luca un altro, capito? Ah, ho capito. Infatti, no, io ce l'ho il ricambio sempre, capito? Perché ci vuole il ricambio. E per cui va bene così, vai. No, no, 2 euro costa, Luca, quel microfono. Quale microfono? Per il DMR. Per il DMR? Il microfono, io quando ho comprato il DMR mi hanno mandato le cuffiette e anche il microfono. Ah, cosa? 2 euro cosa? Cosa poco quei microfoni, no? I miei 2 euro è uguale a quello Boyfriend, vetro giubbuto. E c'ha la spina quella che incassi al fianco della radiolina. Mi Boyfriend, vetro giubbuto. È uguale identica a quelli che c'ho io ne ho 3 ne ho. E a chi lo sale come te, cavatina, va, è chiaro che ammazzano i frizzi. Sono sempre da fuori, ma anche in Italia, boh, non so cosa in Italia. Sicuramente non costano 2 euro. Penso che anche cosa in più, Aspetta che sto rispondendo all'amico nostro. Allora, dove? Si chiama Jack. Lo so come si chiamava l'attacco Giomari Jacky di quel microfono. Come si chiama? Jacky si chiama l'attacco di quel microfono. Ah, ho capito. Me l'ha detto Luca adesso, deve essere ci sta ascoltando. Io come sempre. Se poi succede, dice. Sì. Chissà cosa combinata, ma. Infatti, travagliene a cucini. È fatto. Sarà cubicando. Ah, cubicando sta. Beh, pare che ci sia. Il usalone che fa vedere la televisione. E cosa travagliene? Catta. Non una gara più di travagliare chi sono, ormai ho fatto di là. E fa forza se tu non ruggiami chi ti vuole ingrassare, si arrangia con i travaglietti, con i travagliucci in casa, c'è marazzappa in campagna. Ah, dici che è cresciuta la luce in panza, l'è cresciuta la cibola di Cirà, capito? E non vi può venire in pagisso. Anche tu quando vai in campagna li dai i biscetti. Ma vi ha mandato un filmino in campagna, la della gravia, un metro, tutto capo collo, biscetti, a finire a poco, pettini di cavallo. C'è fatta fortuna lì. Vuol dire che fai l'appetito. Ma io ce l'ho cresciuto lo simpanza, hai visto che l'hai cresciuto lo simpanza? Già la giuvice prima era rotonda, aveva diventato quadrato. Ha detto, allora non si può manco girare se è quadrato. Prima era da Bombay la prima. Dei campioni per ricercare i sassari. Lì belli, se lo sta pubblicando. E cosa sta mandendo? Sta facendo delle montature di occhiali. Belli, proprio. Non posso entrare, che sto cubicando delle stecche di occhiali da fare dei campioni per degli ottici qua di Sassari. Chi vende occhiali, dai. Sono belli, mi ha mandato il video. A te ti piace queste cose, paesi che te l'ha mandati. E allora, va bene là, esci chi sta, come posso l'insulina. Ce la sediamo, a domani, ciao anche a Chiena, ciao Luca, ciao Giammaria, buona cena a domani, ciao. Mi raccomando, mangia un bel saluti. Ok, ciao, stammi bene, saluta in casa, ciao. Ciao, grazie, tanto anche noi quasi fanno per accompagnare, perché c'ho qualche lavoro da fare. Ciao Giomaria, ci sentiamo domani. Ciao, mi raccomando, la pasta al forno, mangiata tutta, lasciala domani, Ciao. Ciao. Ma forno in frigo, Mari. Tanto sicuramente domenica siamo a casa e ce la mangiamo a pranzo. Fate così allora. L'importante si piena un sacchetto. Ciao, Lu. Ciao, Giovanni.